io e te non siamo mai morti, però non ci alziamo, restiamo fermi immobili, seduti su questi divani scomodi. La risposta è là fuori, la risposta è là fuori, che secondo me è sempre la stessa, che secondo me siamo noi. Se solo vivessimo a pochi metri di distanza invece che a chilometri, hai idea di quanti sogni potremmo affidarci, di quanti tramonti potremmo guardare dall'alto, di palazzi abbandonati potremmo dare nomi alle stelle, ridere di ogni singola cazzata.